Ad alta voce. Elia Shilton legge Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. Siamo in viaggio da più giorni. Nel cielo appaiono i primi aeroplani. Oltrepassiamo treni di munizioni, cannoni. Eccoci sulla ferrovia da campo. Io cerco il mio reggimento, ma nessuno sa dove si trovi. In qualche luogo passo la notte, in qualche luogo mi danno da mangiare e poche vaghe istruzioni, e col mio zaino e col mio fucile riprendo il cammino. Arrivo in una località distrutta dalle granate, nessuna traccia dei nostri. Mi dicono che siano costituiti in divisione volante e che li mandino sempre nei punti ove fa caldo. La prospettiva non è attraente. Mi parlano di grandi perdite che avrebbero subito. Mi informo di Kat e di Albert. Nessuno ne sa nulla. Continuo le ricerche girovagando. È una sensazione curiosa. Ancora per una notte e poi per un'altra dormo all'aperto come un pelle rossa. Finalmente ho notizie precise e nello stesso pomeriggio posso presentarmi in fureria. Il furiere mi trattiene. La compagnia rientra fra 2 giorni, non val più la pena di mandarmi in linea. «Com'è andata la licenza?» mi domanda. «Bello, eh?» «Così, così», rispondo. «Già», sospira lui, «se non si dovesse poi ripartire. La seconda metà della licenza è senz'altro rovinata da quella prospettiva lì. Vado bighellonando qua e là finché un mattino vedo rientrare la compagnia, grigia, sporca, stanca e triste. Fo un salto e mi caccio in mezzo a loro. Cerco con gli occhi ed ecco Tiaden, ecco Müller che si soffia il naso, ecco anche Kat e Krop. Ci prepariamo i pagliericci l'uno accanto all'altro. Nel guardarli sento un certo rimorso, sebbene non ne abbia motivo. Prima di coricarmi tiro fuori il resto delle mie frittelle e la marmellata perché anch'essi ne abbiano un poco. 2 delle frittelle a contatto dell'aria si sono un po' ammuffite, pure si possono mangiare ancora. Le tengo per me e offro a Kat e a Krop le meglio conservate. Kat mastica adagio e domanda: «Queste vengono dalla mamma, vero?» Faccio cenno di sì. «Già», dice lui, «si sente al sapore». Mi viene quasi da piangere, non mi riconosco più, ma ora andrà meglio in compagnia di Kat e di Albert e degli altri. E questo è il mio posto. «Sei fortunato», mi mormora Krop prima di addormentarsi. «Corre voce che ci mandano in Russia». In Russia, che baza, là non è più guerra. Da lontano giunge il tuono del fronte, le pareti della baracca tremano scricchiolando. Si fa pulizia straordinaria, un appello dopo l'altro, ispezioni su ispezioni. La roba stracciata viene sostituita con roba nuova. Io ci guadagno una giubba in perfetto stato, Kat naturalmente una divisa completa. Corre voce che sia la pace. Più probabile però sembra l'altra supposizione, che si vada travasati al fronte orientale. Ma che bisogno c'è di vestirci meglio in Russia? Finalmente la verità trapela. Viene l'imperatore a ispezionarci. Ecco il perché di tutte quelle riviste. Per 8 giorni par d'essere tornati in una caserma di reclute, tanto si sgobba e si fanno esercitazioni. Tutti sono stanchi e nervosi, questi eccessi di pulizia non sono di nostro gusto e il passo di parata ancora meno. Queste cose indispettiscono il fante più che la trincea. Finalmente giunge il gran momento. Davanti alla truppa allineata sull'attenti appare l'imperatore. Siamo curiosi di vedere che faccia ha. Egli percorre la nostra fronte ed io rimango alquanto deluso. Dai ritratti me lo ero figurato più grande, più poderoso e soprattutto con una voce più tonante. Distribuisce alcune croci di ferro, rivolge la parola a questo e a quello, poi torniamo alle nostre baracche. Tra noi si discorre dell'avvenimento. Tiaden esclama stupito: «Questo dunque è il capo in testa che sta più in su di tutti. Davanti a lui stanno sull'attenti tutti quanti, tutti indistintamente». Ci ripensa un po' e poi: «Anche Hindenburg deve star sull'attenti, no?» «Sicuro», conferma Kat. Ma Tiaden non ha finito. Riflette ancora un pochino e poi: «Anche un re deve stare sull'attenti davanti a un imperatore?» Qui nessuno sa dargli una risposta precisa, ma non crediamo. Sono tutte e due pezzi grossi che non è più il caso di parlare di attenti. «Che razza di scemenze mi tiri fuori», brontola Kat. «L'importante è che ci devi stare tu sull'attenti». Ma Tiaden pare colpito da un fascino. La sua fantasia, di solito così arida, è in ebollizione. «Ecco», ci dichiara, «quello che non riesco a figurarmi è che un imperatore debba andare alla latrina tale e quale come ci vado io». «Eppure puoi scommetterci la testa», dice Crop ridendo. «Ma dico, oi, che ti gira?» completa Kat. «Ti sono andati i pidocchi al cervello, caro Tiaden. Vacci tu subito alla latrina che ti si schiariranno le idee e non parlerai più come un bambino in fasce». Tiaden sparisce. «Una cosa però vorrei sapere», dice Albert, «se la guerra ci sarebbe stata egualmente nel caso che l'imperatore avesse detto di no». «Ma certo», interrompo io, «anzi, dicono che lui in principio non la voleva affatto. Beh, se non proprio lui solo, mettiamo se 20-30 persone nel mondo avessero detto di no. In questo caso può darsi, il male è che quelle hanno detto di sì». «È buffo a pensarci», continua Crop. «Noi siamo qui per difendere la patria, non è vero? Ma i francesi stanno di là anche loro per difendere la patria. Chi ha ragione? Forse gli uni e gli altri», dico io senza crederci troppo. «Va bene», dice Albert, e vedo dalla sua faccia che cerca di confondermi. «Ma i nostri professori e pastori e giornali dicono che abbiamo ragione noi. Ed è sperabile che sia così, mentre dall'altra parte professori e curati e giornali francesi sostengono che hanno ragione soltanto loro. Come va questa faccenda?» «Questo non lo so», dico io. «Quello che so è che la guerra c'è e che ogni mese vi entrano altri paesi». Ricompare Tiaden, ancora eccitato, e si mescola subito al discorso informandosi in che modo innanzitutto scoppi una guerra. «Generalmente è perché un paese ha fatto una grave offesa a un altro», risponde Albert con una cert'aria sentenziosa. Ma Tiaden fa il tonto. «Un paese? Non capisco. Una montagna tedesca non può offendere una montagna francese, né un fiume, né un bosco, né un campo di grano». «Sei bestia davvero, fai per burla», brontola Crop. «Non ho mai detto niente di simile. È un popolo che offende un altro». «Allora non ho che fare qui. Io non mi sento affatto offeso», replica Tiaden. «Ma mettiti bene in zucca», gli fa Albert stizzito, «che tu sei un povero villanaccio e che non conti nulla». «E allora ragion di più perché me ne vada a casa», insiste l'altro mentre tutti ridono. «Ma, mio caro uomo, si tratta del popolo come collettività, ossia dello Stato», grida Müller. «Stato, Stato», e Tiaden con aria furbesca fa schioccare le dita. «Guardie campestri, polizia, tasse, ecco il vostro Stato. Se è tuo parente, ringrazialo tanto da parte mia». «Giusto», dice Kat. «Hai detto per la prima volta una cosa di buon senso, Tiaden. Lo Stato e il paese sono veramente due cose diverse». «Ma vanno connesse l'una con l'altra», osserva Crop. «Paese senza Stato non esiste». «Vero, però rifletti un po' che siamo quasi tutti povera gente. E anche in Francia la gran maggioranza sono operai, manovali, piccoli impiegati». Perché mai un fabbro o un calzolaio francese dovrebbe prendersi il gusto di aggredirci? Credi a me, sono soltanto i governi. Prima di venir qui io non avevo mai visto un francese e per la maggior parte dei francesi sarà andata allo stesso modo quanto a noi. Nessuno ha chiesto il loro parere come non hanno chiesto il nostro. E allora a che scopo la guerra? Domandati Aden. Kat alza le spalle. Ci deve essere gente a cui la guerra giova. Beh, io non sono del numero, sghignazzati Aden, né tu né altri qui. E chi allora, insiste Tiaden, neanche all'imperatore la guerra giova, lui ha già tutto quello che gli occorre. Non dire questo, interrompe Kat, finora una guerra non l'aveva avuta. E si sa che ogni imperatore di una certa grandezza deve avere almeno una guerra, altrimenti non diventa famoso. Guarda un po' nei tuoi libri di scuola se non è così. Anche i generali diventano famosi con la guerra, osserva Detering. Più ancora degli imperatori, conferma Kat. Però è certo che dietro v'è altra gente che ci vuol guadagnare, brontola Detering. Credo piuttosto che si tratti di una specie di febbre, dice Albert. In fondo non la vuole nessuno, e poi a un dato momento ecco che la guerra scoppia. Noi non l'abbiamo voluta, gli altri sostengono la stessa cosa e intanto una metà del mondo la fa e come. Però dall'altra parte si stampano più frottole che da noi, replico io. Pensate un po' a quei fogli trovati sui prigionieri, dove si diceva che noi mangiamo i bambini belgi. Bisognerebbe impiccare le canaglie che scrivono cose simili. Sono loro i veri colpevoli. Müller si alza. Meglio ad ogni modo che la guerra si faccia qui piuttosto che in Germania. Guardate un po' queste campagne. Giusto, conviene anche Tiaden. Però meglio ancora sarebbe se non ci fosse guerra affatto. E se ne va tutto fiero di aver bagnato il naso a noi altri volontari. E in realtà la sua opinione è tipica qui. Ogni momento ce la troviamo di fronte senza poterle contrapporre nulla di efficace, perché va di pari passo con una incomprensione di ogni altro ordine di rapporto. Il sentimento nazionale del Fante consiste in questo, che egli è qui a combattere, ma in ciò pure si esaurisce. Tutto il resto viene da lui giudicato empiricamente e dal suo particolare punto di vista. Albert si sdraia nell'erba di cattivo umore. Meglio non parlare di tutto questo pasticcio, tanto più che non si cambia nulla, conferma Kat. Per sopramercato ci tocca restituire quasi tutto il vestiario nuovo che avevamo ricevuto e riprendere i nostri vecchi stracci. La roba buona serviva soltanto per la parata. Altro che Russia, ci rimandano in linea. Attraversiamo ancora un miserabile boschetto dai tronchi straziati e dal suolo sconvolto. In alcuni punti si aprono buche enormi. Accidenti, qui è grandinato secco, dico a Kat. Bombarde, risponde lui, e mi indica qualcosa in alto. Dai rami pendono cadaveri. In una forcella c'è un soldato nudo con l'elmo ancora in testa, del resto non un filo indosso. Il torso è rimasto lassù, le gambe mancano. Diamine, che è successo? Esclamo. Niente, è stato strappato fuori dal suo vestito, brontola Tiaden. Kat dice, curioso, l'abbiamo osservato più di una volta, quando una bombarda scoppia in pieno, ti sbalza effettivamente fuori dal vestito, effetti della pressione d'aria. Io continuo a cercare con lo sguardo. È proprio così. Qui pendono brandelli di uniforme. Là è appiccicata una poltiglia sanguinosa, resto di membra umane. Ecco un corpo con un solo pezzo di mutanda infilato in una gamba e il bavero della giubba intorno al collo. Il resto è nudo. Il vestiario pende qua e là fra i rami. Le due braccia mancano come se l'avessero disarticolate. Ne scopro uno in un cespuglio a 20 passi di là. Il morto giace con la faccia a terra. Dove sono le piaghe delle due braccia, la terra è nera di sangue. Sotto i piedi l'erba è raspata via, come se l'uomo avesse tirato calci prima di morire. «C'è poco da scherzare, Kat», mormoro io. «Anche una scheggia nella pancia non è un complimento», risponde lui alzando le spalle. «Basta non intenerirsi», raccomanda Tiaden. «Tutto questo non deve essere accaduto da molto tempo. Il sangue è ancora fresco. Poiché quelli che vediamo sono tutti morti, non ci soffermiamo, ma segnaliamo la cosa al più vicino posto di sanità. Dopotutto, non è affar nostro rubare il mestiere ai portabarelle». Occorre mandar fuori una pattuglia per accertare in che misura sia tuttora occupata la posizione nemica. A causa della mia licenza, io sento una specie di obbligo in confronto dei compagni e perciò mi offro volontario. Fissiamo il piano, sbucchiamo fuori dai reticolati e ci dividiamo per inoltrarci i carponi separatamente. Dopo qualche tempo trovo una buca poco profonda entro cui mi lascio scivolare e di lì osservo. Il settore è sotto un fuoco moderato di mitragliatrici. Viene spazzato in tutti i sensi, non troppo intensamente, ma abbastanza perché non sia igienico mettere in vista la propria carcassa. Paracadute luminoso si spiega, il terreno si stende gelido sotto la luce livida, tanto più nera sembra un minuto più tardi la notte che torna a coprirlo. In trincea ci raccontavano poc'anzi che avremo di fronte truppe negre. Ciò è spiacevole perché sono meno visibili e poi sono abilissime in pattuglia. Per contro sono spesso altrettanto irragionevoli. Una volta Kat e Crop in ricognizione ne hanno abbattuto a fucilate tutta una pattuglia perché quei disgraziati, nella loro avidità di sigarette, fumavano cammin facendo, sicché i nostri non avevano che da mirare contro i punti di bragia. Accanto a me fischia una piccola granata. Non l'avevo sentita venire e ne provo uno spavento improvviso. Nello stesso istante mi coglie non so quale insensata paura. Sono qui solo, quasi senza difesa nell'oscurità. Già da un po', forse, due occhi mi osservano da una buca vicina, forse una bomba a mano è lì pronta al lancio per farmi a pezzi. Cerco di ridarmi animo, non è la prima ricognizione né la più pericolosa, ma è la prima dopo la licenza e per di più il terreno mi è ancora piuttosto sconosciuto. Mi rendo ben conto che la mia agitazione è assurda e che probabilmente nessuno mi spia nell'oscurità, perché altrimenti il tiro non sarebbe così radente. Ma tutto è inutile. Ho nel cervello un turbine confuso di pensieri. Sento la voce ammonitrice di mia madre, vedo i russi appoggiarsi allo steccato con le loro barbe ondeggianti. Ho la chiara, deliziosa visione d'una cantina con poltrone, poi di un cinematografo a Valenciennes. Vedo la bocca grigia e fredda d'un fucile guatare in silenzio, orribile nell'immaginazione, ogni movimento che io faccia con la testa per sfuggirle. Da tutti i pori mi stilla il sudore. Sono sempre coricato nella mia piccola conca. Do un'occhiata all'orologio. Non sono trascorsi che pochi minuti. Ho la fronte bagnata, umide le occhiaie, le mani tremanti e affannoso il respiro. Non è altro che un terribile attacco di paura, una infame paura ladra di tirar fuori la testa, di strisciare avanti. La mia tensione si scioglie come una pappa nel desiderio di rimanere lì disteso. Le mie membra sono incollate al terreno e nonostante i miei sforzi non se ne vogliono staccare. Mi schiaccio contro il suolo, non posso andare avanti e alla fine decido di rimanere ove sono. Ma subito un'altra ondata mi avvolge, un'ondata mista di vergogna, di rimorso eppure anche di sicurezza. Mi sollevo un poco per guardare fuori. Gli occhi mi bruciano a furia di fissare l'oscurità. Un razzo sale, mi rintano di nuovo. Combatto con me stesso una lotta insensata e selvaggia. Vorrei uscire dalla conca e vi ricasco. Mi dico, tu devi uscire, si tratta dei tuoi compagni, non è un qualsiasi ordine balordo. E poi subito, che importa, ho una vita sola da perdere. Tutta colpa della licenza, dico a me stesso, con amarezza per scusarmi, ma so bene che non è così. Sento una fiacchezza atroce nelle membra. Mi alzo adagio e punto le braccia in avanti, mi trascino con le reni e sono mezzo fuori dalla buca. Ma ecco un rumore, mi rimpiatto di nuovo. Nonostante il frastuono dell'artiglieria, si distinguono nettamente i rumori sospetti. Tendo l'orecchio, il rumore è alle mie spalle. Sono uomini nostri che camminano nelle trincee. Adesso odo anche voci soffocate. Dal tono potrebbe essere la voce di Kat. E un calore straordinario mi fluisce ad un tratto nelle vene. Quelle voci, quelle poche parole sommesse, quei passi nella trincea mi strappano di colpo all'orribile isolamento, all'angoscia mortale alla quale stavo per cedere. Sono più che la mia vita, quelle voci, sono più che l'amore e l'ansia materna, sono la cosa più fortificante e protettrice che vi sia, sono le voci dei miei compagni. Non sono più un brandello tremante di vita, solo nelle tenebre. Appartengo ad essi ed essi a me. Abbiamo tutti lo stesso terrore e la stessa vita. Siamo legati fra noi in un modo semplice e solenne. Vorrei affondare il mio viso in quelle voci, in quelle poche parole che mi hanno salvato e che d'ora innanzi mi assisteranno. Ich bin auf der Flucht vor aufgebrachten Massen. Quer durch die Wildnis, am Ende angekommen, warte lange schon am Eingang, stumm und ohne Plan. Zunächst ist da ein Sturm. Du ziehst nicht damit vorbei. Dann ist da ein Beben. Aber auch da bist du nicht involviert. Ich werde heftig von unten an den Wurzeln reißen, bis die obere Welt sich regt. Kommt der Mann.